dopo aver perseguito quell'American Way of Life che era fatta di villette nei suburbs, nei sobborghi residenziali, col garage, la cantina, la soffitta, piene di oggetti inutili, inservibili, comprati in un'orgia di inebriante, no? di ipnotizzati da queste offerte speciali della grande distribuzione, si accorgono di essersi riempiti a casa di oggetti scadenti che valgono pochissimo, che squalificano anche chi li produce, perché poi dietro l'oggetto cheap c'è anche un degrado della manodopera umana che li ha prodotti, oltre alla distruzione di risorse naturali. Certo, vi ricordo sempre che stiamo parlando con Federico Rampini del suo nuovo libro, il suo nuovo titolo è Slow Economy, rinascere con saggezza, tutto quello che noi occidentali possiamo imparare dall'Oriente, edito da Mondadori, un'analisi di una ripartenza, se non altro occidentale, perché c'è un altro mondo appunto che nel frattempo sta facendo una corsa per alcuni versi. Diversa. Quindi comunque l'ipotesi, Federico, che tu formuli è che anche il capitalismo, dopo questa gioventù un po' bruciata, se vogliamo dire così, sia di fronte a una possibilità benigna di, in un certo senso, maturare, e che questa maturazione passi attraverso, almeno a livello diffuso, a livello grassroots, a livello di base, di noi poveri, normali, gente qualsiasi, di una riconsiderazione dei ritmi, di una revisione dei tempi, e che in America per di più abbiano anche la fortuna di avere la Casa Bianca, una famiglia che dà un po' l'esempio in questo senso. Beh sì, da tanti punti di vista l'America in questo momento ha una leadership molto illuminata, molto lucida, visionaria. Io sono stato in tempi recenti a fianco a Obama nel suo viaggio in Asia, e lì per esempio era evidente come questo sia il presidente più cosmopolita, un presidente che ha veramente capito come il XXI secolo si gioca sul Pacifico, cioè sull'asse tra gli Stati Uniti e l'Asia, ha capito che i paesi asiatici avranno un ruolo dominante in questo secolo e quindi che lì deve riorganizzare una visione del futuro. E al tempo stesso c'è una First Lady, Michelle Obama, che pur essendo una professionista affermatissima prima di fare la First Lady, per appunto guadagnava più lei del marito, una donna di alto livello di istruzione, molto emancipata, di grande intelligenza, che però anche ha la capacità di gesti molto semplici che mandano dei messaggi educativi, chiari, come l'orto alla Casa Bianca, nel giardino della Casa Bianca, che ha avuto un impatto sulla società americana. Se uno pensa al fatto, la piaga dell'obesità di massa che c'è negli Stati Uniti, quel mangiare troppo e quel mangiare male, mangiare cibo spazzatura, junk food, con troppi carboidrati, pochissima frutta e verdura. E, ecco, quel messaggio di ritorno a un rapporto diretto con la natura è stato qualcosa di molto essenziale, di molto importante, perché coglie delle tendenze che stanno cominciando a muoversi nella società americana. Jingle bells are jingling, the streets are white with snow, the happy crowds are mingling, but there's no one that I know. I'm sure that you'll forgive me if I don't enthuse. I guess I got the Christmas blues. I've done my window shopping, there's not a store I missed, but what's the use of stopping when there's no one on your list? You'll know the way I'm feeling when you love and you lose. I guess I got the Christmas blues. When somebody wants you, somebody needs you, Christmas is a joy of joys. But friends, when you're lonely, you'll find that it's only a thing for little girls and little boys. May all your days be merry, your seasons full of cheer, until it's January, I'll just go and disappear. Oh, Santa, may I bought you some stars for your shoes, but Santa only brought me the blues. Those brightly packaged tinsel covered Christmas blues. Some stars for your shoes, but Santa only bought me the blues. Those brightly packaged tinsel covered Christmas. Buongiorno America. È possibile educare una popolazione, no, che ha scalato una montagna in un senso, adesso a ridiscenderla rapidamente nell'altro, secondo te? Credo di sì, è possibile, perché cioè, comincia a farsi strada la consapevolezza di quanto sia stato distruttivo per il popolo americano lasciarsi sedurre dai messaggi di quella che è stato anche definito Frankenfood, cioè il cibo Frankenstein, perché dietro c'è un'industria, c'è un blocco di potere economico che ha industrializzato l'agricoltura americana, quella più alto utilizzo di pesticidi, di insetticidi. Quindi nel titolo Slow Economy, tra l'altro, c'è implicito anche una citazione dello Slow Food di Carlo Petrini, che ha un grande successo in molte parti d'America, sta penetrando questo messaggio italiano, in fondo, di ritorno alla qualità, al cibo genuino, alle radici, alla storia, alla gastronomia locale. Queste cose stanno accadendo, per fortuna, negli Stati Uniti, ed in fondo anche lì gli asiatici hanno qualcosa da dirci, perché uno degli apologhi o delle parabole con cui comincio proprio il libro è quello della penetrazione a Manhattan del rickshaw, che li chiamano pedicab, no? Questo modo di trasporto così arcaico, che addirittura in Asia fu simbolo di uno sfruttamento umiliante della manodopera proletaria, e che adesso invece a Manhattan ha per protagonisti dei giovani studenti che lo fanno a part time per pagarsi gli studi, guadagnano bene, stanno all'aria aperta, esercitano i muscoli polpacci invece di stare come certi loro connazionali sdraiati davanti al sofà a mangiare patatine, e CO2 zero, e sono più veloci. Ecco, ancora un esempio di lentezza che diventa molto veloce, perché il rickshaw a pedale si muove quando tutte le macchine sono ferme, paralizzate negli ingordi. Tra l'altro è divertente, metti a confronto questa nuovissima forma di trasporto urbano con quella che ieri sembrava la nuovissima forma, ovvero quegli strani trabiccoli provenienti, se non sbaglio, dalla West Coast, con delle enormi ruote su cui uno, di solito cittadini un po' incerti, provano a girare, con il fatto di avere sempre comunque un motore sotto il sedere, insomma, sì, è già qualcosa Il Segway è esattamente il contrario, l'estremo opposto, mostruoso. Mi fa venire in mente quel film di animazione della Disney Pixar che è che è un futuro in cui addirittura l'umanità può aver perso la capacità di muoversi sulle proprie gambe. Senti, ma questo imparare dai cinesi, ne parli a più riprese nel libro, anche facendo il tuo caso personale, per esempio questo primo impatto così americanamente un po' disturbato, con invece un concetto di riuso, di riciclo, di prudenza in un certo genere di consumi che hai incontrato in Oriente, vero? Ma sì, una parte di questo libro io l'ho fatto scrivere dagli asiatici stessi, a cominciare dalla mia assistente cinese Zhang Yin, con cui ho convissuto, collaborato per 5 anni di fila nell'ufficio di Pechino. Passavamo 8 ore al giorno a lavorare insieme, e a poco ho cominciato a cogliere tutta una serie di micro comportamenti quotidiani che erano erano profondamente diversi. Le chiedevo di farmi delle fotocopie, mi presentava dei fogli di carta dove non capivo da quale parte aveva stampato, perché riutilizzava dei fogli di carta che erano già una facciata stampata. E allora ho cominciato a chiederle di farmi un elenco di tutti i miei comportamenti sbagliati dal punto di vista dello spreco, del consumismo inutile, e viene fuori appunto un capitolo, no? Che era famoso, l'esempio dell'acqua in cui lei fa bollire il riso, non la butta mai via nel lavandino, la lascia raffreddare, poi annaffia le piante. Ecco, c'è quest'idea in fondo, e sto parlando di una persona, la mia assistente cinese Jiang Yin, che fa parte di una nuova generazione di cinesi colti, ha studiato anche all'estero, benestante tutto sommato, un ceto medio alto, urbano, e tuttavia ha conservato una saggezza ancestrale che viene da un'epoca ancora relativamente recente di miseria, e viene vissuto questo consumo frugale, questa attenzione a non sprecare le risorse, a non buttare via inutilmente, viene vissuto con serenità, cioè non è uno spirito di sacrificio. Non è depressivo, non è una cosa cupa. E tu lo raffronti invece con una specie di consumismo un po' isterico e superficiale, no? Sì. Con un consumismo che da noi ormai viene studiato addirittura da psicopatologi, perché ha delle punte stressanti che ci fanno molto male, ci fanno soffrire alla fine. Quindi ritrovare attraverso la slow economy le vie della qualità è probabilmente anche rasserenante, una cura contro certi mali del nostro tempo, della nostra epoca. Appare in un capitolo del tuo libro un personaggio che mi ha affascinato moltissimo, tra l'altro di cui colpevolmente ignoravo l'esistenza, un astronomo del 400 che si chiama Paolo del Pozzo Toscanelli, che quanto a primo guardarsi, strusciarsi, analizzarsi fra Oriente e Occidente, ha giocato un ruolo importante in occasione di una misteriosa visita, no, di una delegazione, se si può dire così, cinese in una Firenze diversa, anche se splendida per altri motivi, dove anche allora ebbero qualche motivo di incomprensione. Tutto finì un po' lì, sembra di capire, no? Un'occasione così straordinaria per quei tempi, però poi... Ma dunque, perché nella slow economy io al tempo stesso faccio un viaggio nello spazio attraverso questi miei ricordi di vita asiatica, ma ogni tanto anche un viaggio nel tempo, e alla ricerca di altri momenti in cui i destini dell'Oriente e dell'Occidente si sono incrociati. Quello del 1433, quella visita di una delegazione di scienziati e diplomatici cinesi a Firenze, all'apparenza sì, non fu proficua, non fu feconda. In realtà poi probabilmente lasciò in noi dei germi nascosti positivi, nel senso che lasciò tracce di alcune avanzate tecnologie, soprattutto nel campo astronomico, che probabilmente hanno aiutato Cristoforo Colombo nella sua navigazione, e quindi hanno aperto poi il secolo delle grandi scoperte per l'Occidente. Interessante come l'Oriente può averci aiutato anche allora, forse in modo addirittura inconsapevole. Un capitolo particolarmente stimolante di Slow Economy, vi ricordo il libro di Federico Rampini, Rinascere con saggezza, che vi stiamo presentando oggi insieme all'autore. E, insomma, per concludere, nel tuo libro, oltre a un capitolo apposito dedicato a una forza che nella tua analisi, secondo te, in Oriente oggi è moneta corrente, mentre da noi lo è assai meno, che è l'ottimismo, no? Però devo dire che in chiave più personale, tua, di osservatore, tira un vento di lieve, ma insomma, educato ottimismo. La nottata sembra che possa passare, probabilmente i costumi, forse a causa di quello che è accaduto, modificarsi, ma poi insomma si continuerà, è possibile continuare a vivere con una certa percentuale di serenità, forse addirittura di felicità, ma le cose non saranno probabilmente più le stesse, così? Non devono più essere le stesse, ma io credo, in fondo il metodo che utilizzo in Slow Economy è un po' paragonabile a quello di certe arti marziali asiatiche,